intanto sono accusato anche purtroppo di minaccia o violenza pubblico ufficiale, non so perché. Comunque era il 20 giugno scorso, in occasione della giornata mondiale del rifugiato, eravamo al Pantheon a un flash mob di Amnesty International e mi è stato chiesto alla fine del flash mob e dopo l'intervento che ha fatto Riccardo Nuri, responsabile portavoce di Amnesty Italia, mi è stato chiesto di fare un intervento sui decreti Orlando Minniti, quindi su quello di immigrazione e quello di pubblica sicurezza. Ho fatto una ricostruzione dei decreti, una critica anche aspra ai decreti, ma fondata completamente su dati anche tecnico-giuridici, quindi sollevando possibili questioni di illegittimità costituzionale e profili di ingiustizia sociale. Ledono qualunque povero, insomma, attaccano qualunque povero all'interno delle città. Abbiamo visto con l'elemosina le sanzioni a chi fa l'elemosina, agli ambulanti. Insomma, il problema sono i poveri e gli indicorosi. Io questo qua continuo a dirlo e non credo che questo possa integrare gli estremi per il reato di vilipendio, che tra l'altro, lo dico così, deve essere, per essere perseguito, deve essere autorizzato da parte del ministro della giustizia, quindi paradossalmente proprio Orlando. Se continuerà questa cosa, se la procura ravviserà gli estremi proprio per contestarmi, quindi per indagarmi, ecco, a quel punto si dovrà chiedere un'autorizzazione al ministro. Comunque una cosa, ecco, è successo che dopo l'intervento sono stato identificato, raggiunto da agenti, è stato chiesto di identificarmi, di fornire il tesserino. Io l'ho fatto senza problemi, però ho chiesto il perché, per quale motivo anche la piazza, insomma chi stava in quella piazza, chiunque chiedeva per quale motivo si viene identificati per un intervento, tra l'altro continente ragionevole, anche tecnico come dicevo prima, e quindi è continuata questa cosa, è continuata addirittura chiamando il signor Nuri, hanno chiamato il signor Nuri e hanno chiesto se mi conoscesse da tempo e se si dissociasse, si volesse dissociare da quello che dicevo. Lui non si è dissociato, Amnesty ha risposto che appunto è assurdo continuare con questa, cioè con questa accusa, è assurdo venire accusati di questo per un intervento in piazza, e quindi ho dovuto eleggere domicilio martedì scorso perché sono stato raggiunto da un invito a comparire arrivato a casa mia e sono dovuto andare a eleggere domicilio nel commissariato qui, insomma, e lì ho scoperto queste due accuse, quindi vilipendio degli organi costituzionali e minaccia o violenza pubblico ufficiale. In queste ore però poi la questura dà una versione un po' diversa dicendo che è intervenuta su addirittura su richiesta di Amnesty International, ma non sono andate così le cose. Non sono assolutamente andate così, tra l'altro è uscito sul sito di Amnesty, è uscita una rettifica, una smentita a quello che dice la questura, dicendo che assolutamente nessun organizzatore ha mai pensato di dover chiamare le forze dell'ordine per un intervento, e tra l'altro è stato stimolato proprio da loro, giustamente, perché si parlava di giornata mondiale del rifugiato a 2 mesi dall'entrata in vigore effettiva del decreto immigrazione, tra l'altro approvato, questo qua per inciso, approvato con decreto di necessità e urgenza, come il decreto legge per necessità e urgenza, ma va in vigore a 6 mesi dall'approvazione, quindi tutta questa urgenza probabilmente non c'era, questo per inciso, giusto per spiegare anche un po' le dinamiche politiche e costituzionali. Tu hai avuto modo anche di sottolineare una cosa, tu sei un legale, no, e quindi saprai difenderti, ma questo potrebbe non essere la condizione di qualunque cittadino. Assolutamente, ho pensato infatti a un ragazzo che magari a 20 anni fa un intervento giustamente dicendo, manifestando le proprie idee come è consentito dalla Costituzione, ci sta l'articolo sul diritto di espressione che parla abbastanza chiaro. Se fosse successo forse a un ragazzo che doveva andare a rivolgersi a un avvocato e leggere il domicilio, farsi seguire, dove spendere dei soldi per tutto questo, probabilmente quel ragazzo non farebbe più un intervento in piazza, e secondo me questa cosa è di una gravità molto alta e deve essere contrastata, questa cosa non deve passare, cioè assolutamente.